picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Puntata numero 28 per Picchi di Frequenza, che riapre da dove ci eravamo lasciati, l'incontro con Massimo Bursi e il suo flash di alpinismo. A seguire anche questa settimana niente news della settimana, perché teniamo tutto lo spazio a nostra disposizione per l'incontro con Andrea Bollati, autore della nuova guida sul Terminillo ai Monti Reatini. Sarebbe corretto dire che il racconto, anche attraverso, come dire, la forza evocativa di alcune immagini, in qualche misura è anche una metafora del, come dire, della liberazione dell'alpinismo contemporaneo da una certa austerità della storia, del rapporto tra l'uomo e la roccia, dentro la vicenda della Val di Mello, del Nuovo Mattino. Ho visto alcune immagini che raccontano invece, dell'estetica e dell'attrezzatura degli arrampicatori dell'est, le pareti lisce britanniche, sì. Insomma, che raccontano del doversi continuamente cimentare, non soltanto con nuove esperienze o con esperienze differenti, che vengono da tradizioni locali differenti, ma anche da un tentativo di tornare a sorridere, ecco, nel rapporto con la montagna. C'è uno scimmiottamento continuo di quella che invece era la storia mitica e mitologica dell'imalaismo, delle conquiste degli 8000, della durezza, come dire, del rapporto tra la vita e la morte, che invece ha connotato in maniera così, così forte, così indelebile anche la vicenda precedente dell'alpinismo. Sì, direi, Alberto, che tu hai toccato in questa tua domanda o in queste tue riflessioni una serie di punti molto, molto importanti. Innanzitutto io, diciamo, come persona, proprio una cosa che odio profondamente è la retorica, e quindi, diciamo, nel momento in cui, diciamo, l'arrampicata degli anni, fine degli anni 70, 80, in cui ci siamo liberati da scarponi, abbigliamento, come dire, old style, ci siamo messi una bandana in testa e abbiamo in qualche modo anche, diciamo, liberati una serie di pregiudizi, ok? Per cui abbiamo guardato le montagne che erano lì da millenni con occhi diversi, e l'alpinismo è diventato una cosa, o andare in montagna è diventata una cosa meno eroica, meno retorica, un po' più gioiosa, un po' più, come dire, anche dove si potevano mettere le proprie paure, incertezze sul tavolo o condividere liberamente con gli amici. È chiaro che alcuni valori sono rimasti, per cui, per esempio, è vero, ci sono delle fotografie, dei riferimenti a scalatori dell'est, quindi per esempio che io, venendo da Verona negli anni 80, ricevamo le visite degli scalatori dell'est che arrivavano con pochissimi mezzi, che ci richiama un discorso di sobrietà, okay? Di umiltà, di mettersi sempre alla prova con queste pareti, ma proprio anche di sobrietà anche negli abbigliamenti, nell'attrezzatura. Perché alla fine quello che fa la differenza non è, diciamo, il materiale super tecnologico, ma è la persona, insomma, è il tuo allenamento, le capacità della singola persona, del singolo alpinista. E tutto questo ho cercato di riproporlo nel libro, più o meno con lo stesso spirito con cui io cerco di viverlo, quindi in maniera così, anche ironica, anche autoironica, in maniera divertente, perché insomma alcuni, per fortuna oggi come oggi, su alcune, io non ho esperienza himalayana, quindi non posso dire, però almeno sulle Alpi si può praticare un alpinismo, diciamo, molto leggero, che possa prendersi anche gioco di un modo pesante, forzato di andare in montagna come era in passato. Diciamo che da questo punto di vista la rivoluzione anche culturale, mentale, viene portata avanti dalle nuove generazioni, per cui diciamo, qualcuno di noi ha dato una spallata su questo muro, oggi le nuove generazioni, i ragazzi, continuano a dare spallate, cioè continuano a proporre nuovi modi di fare alpinismo, cioè potrebbe essere il bouldering, potrebbe essere diciamo, un alpinismo di velocità, potrebbe essere buttarsi giù con le tute alari dalle pareti, quindi modi anche provocatori, dissacranti, che magari possono far storgere il naso a molti, okay? Oppure scendere in neve fresca con gli sci, con la tavola, che però, come dire, aprono nuove barriere e alla fine questo contribuisce a questa specie di grande storia dell'alpinismo, ecco. Allora, io ti fermo qui perché il tempo a disposizione è Sì. per definizione tiranno, ma soprattutto perché l'invito evidentemente è quello a prendere in mano questo libro e provare ad avventurarvici. Il libro è, possiamo dire così, autoprodotto, dove lo troviamo? Dacci qualche informazione, insomma, qualche Allora, contatto per recuperarlo. sì. Allora, il libro è autoprodotto, quindi diciamo è ad oggi una delle pecche che la catena distributiva del libro è molto molto limitata. Quindi è possibile o comprarlo come ebook su Amazon e su altri siti online, ma io vedo che, diciamo, dal primo riscontro che ho da quando l'ho pubblicato, molti preferiscono averlo, diciamo, in formato cartaceo. Allora, in questo caso il canale più facile è, diciamo, che io ve lo spedisca da casa. Me ne sono comprate parecchie copie e lo spedisco da casa. E diciamo, ad oggi il principale modo per avere il libro è la spedizione da casa. Quindi se andate sul sito Flash di alpinismo, proprio scritto flashdialpinismo.wordpress.com, trovate tutte le spiegazioni su come ricevere il libro, oppure sulla pagina Facebook, sempre Flash di Alpinismo, oppure mi contattate direttamente Massimo Bursi, posta elettronica, bursimassimo@gmail.com. E poi presente in alcune librerie di Verona, in alcuni negozi di articoli sportivi tipo Sportler o tipo Gialdini a Brescia, però la diffusione fisica è molto limitata a causa del fatto che il libro è stato autoprodotto sostanzialmente. Anche qui ero in contatto con alcune case editrici che mi proponevano di stampare il libro senza fotografie per limitare i costi. Io ho preferito, diciamo, trovare una soluzione un po' più economica e autostamparmelo, autopubblicarlo facendolo stampare in Albania, ok? Però volevo averlo, insomma, con le fotografie, perché alla fine il riscontro che ho anche dagli amici è che le fotografie, le immagini evocano e arricchiscono molto. Ci sarebbe una terza via che è quella di organizzare una presentazione, quindi potremmo concludere così, aprendo un invito a passare da Milano e magari in una delle prossime puntate di Picchi di Frequenza, insomma, annunciare una presentazione a piano terra insieme all'Ape di Milano. Questo mi farebbe estremamente piacere, insomma, venire a trovarvi all'Ape di Milano e fare una presentazione, anche perché è un modo per conoscerci di persona, tra l'altro per, diciamo, vedere queste immagini, le mie parole e come dire, un potente sottofondo di musica rock e poter scambiarci delle opinioni. Io spero, Alberto, che di avere il modo, la possibilità di, diciamo, di poter organizzare assieme a voi questo incontro quanto prima. D'accordo, allora Massimo, ti ringrazio nuovamente per la disponibilità e oltre a risentirci ci vediamo magari presto a Milano. Certo, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Alberto, grazie a tutti voi. Sventoleremo le nostre radiografie, per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile, costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi. E vieni a vedere l'avanzata dei deserti, tutte le sere a bere per struccarti, useranno delle nuvole cariche di piogge, vedrai che scopriremo delle altre Americhe io e te, che licenzieranno altra gente dal call center, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. catastrofe, le impronte digitali e di notte le pattuglie che inseguono le falene e le comete come te. Tra le lettere d'amore scritte a computer che poi ci metteremo a tremare come la California, amore, nelle nostre camere separate a inchiodare le stelle, a dichiarare guerre, a scrivere. Il lavoro di Andrea Bollati non è soltanto una nuova guida al Terminillo, la vetta più nota tra quelle dei Monti Reatini, è una riscoperta dell'Appennino a partire non più dai progetti impattanti degli impianti di risalita, ma a partire da un turismo, un escursionismo leggero, sostenibile, più attento alla tutela del territorio e dei siti di interesse comunitario che sono pur presenti in quella zona appenninica. A seguire la intensa chiacchierata che abbiamo fatto insieme per presentare la sua guida. Siamo al telefono oggi con Andrea Bollati, autore della guida Il Terminillo, i Monti Reatini. Andrea è un geologo, lavora all'Università degli Studi Roma 3. Era una guida che probabilmente mancava da qualche anno, di cui mancava un aggiornamento che fosse completo nel suo riassumere le proposte, insomma, che questo gruppo di Monti offre per gli appassionati di escursionismo, sci alpinismo, sea climbing, mountain bike, ma non soltanto. Quindi chiedo a te, Andrea, di dirci un pochino di che cosa si tratta e da dove nasce l'idea di proporre, insomma, questa guida. Sì, allora innanzitutto diciamo collochiamo geograficamente questi monti, che immagino che soprattutto gli escursionisti e i montanari del nord magari non sanno bene dove sono ubicati. Ci troviamo chiaramente in centro Italia, a nord-est di Roma, a circa 80 km in linea d'aria da Roma, e a est nei Monti Reatini, diciamo, abbiamo il Gran Sasso, per intenderci. Questi monti si, diciamo, si ergono dalla piana di Rieti e raggiungono e superano con tre cime i 2000 metri. E l'idea, diciamo, di scrivere una guida su questi monti nasce essenzialmente considerando che è un'area di pregio assoluto, una delle poche aree, diciamo, di alta montagna dell'Appennino che non è riserva naturale, non è parco regionale. E, è un peccato, perché poi ne parleremo diciamo, nel corso della chiacchierata. Questa cosa fa sì che questi monti siano, diciamo, sempre a rischio di attacchi rispetto a progetti di urbanizzazione, costruzione di nuovi impianti di sci, eccetera. Comunque sono monti appunto di pregio, con diverse aree SIC, cioè siti di interesse comunitario. E sono, diciamo, monti che offrono diverse possibilità in tutta la stagione, in tutto l'anno, sia d'inverno che d'estate, e quindi ci sono possibilità scialpinistiche e alpinistiche d'inverno, nel periodo di mancanza della neve, invece sono anche le possibilità escursionistiche, possibilità di percorsi in mountain bike, di arrampicata sportiva, di torrentismo, sino addirittura al parapendio. E, mancava, come dicevi te nell'introduzione, mancava una guida su questi monti, una guida, diciamo, aggiornata, completa rispetto a tutte le attività possibili in questi luoghi, e quindi, diciamo, questa era l'altra motivazione che mi ha spinto a scrivere una guida su questi luoghi. Sarebbe corretto dire che il Terminillo, diciamo così, è una montagna di antica realizzazione di funivie, di impianti di risalita, parliamo sin dagli anni 40, poteva essere un po' la stazione sciistica dei romani, e poi ha vissuto invece un periodo di abbandono, di mancato ammodernamento degli impianti, che forse dà anche l'occasione oggi per una riscoperta di questa catena fatta attraverso sport che hanno invece, come dire, un approccio più leggero al territorio. Sì, diciamo che il Terminillo, che è la montagna diciamo, più elevata di questi monti, che tra l'altro è ben visibile da Roma perché i Monti Latini sono tra i monti più diciamo, occidentali della catena appenninica centrale. Il Terminillo è stato considerato luogo dei Romani a torto perché poi i reatini potrebbero dire altrettanto, visto che Rieti si trova proprio alla base di questi monti. Comunque, diciamo che prima della costruzione dell'autostrada Roma-L'Aquila, che adesso permette a Romani e abitanti diciamo, della provincia di Roma di arrivare facilmente in altre aree montane dell'Abruzzo e non solo. Prima di, appunto, di questa costruzione dell'autostrada, i Monti Latini erano i monti più vicini alla capitale, quelli più facilmente raggiungibili attraverso la via Salaria e i primi impianti, diciamo. Vicini a Roma, impianti di sci, vennero costruiti appunto sui Monti Reatini negli anni 30. Però i Monti Reatini non sono monti troppo elevati, la diciamo, conformazione, l'orografia non permette lo sviluppo di appunto, impianti estesi e quindi diciamo, l'attuale stazione sciistica è una stazione che è utilizzata, ma diciamo, non più di tanto, ma giustamente perché non, in teoria non ci sarebbe possibilità di ulteriore sviluppo e comunque il pubblico che utilizza questi impianti è limitato perché vi sono altri impianti in altre zone del centro Italia, sicuramente più interessanti. Probabilmente questo è anche un fattore positivo proprio per la riscoperta, e qui andava a parare la domanda invece Sì, di un sì, approccio sì, così sì. Esatto. più leggero, più rispettoso del territorio. Questa guida a chi si rivolge? Allora, si rivolge a tutti perché considera appunto diverse attività outdoor, da quelle più, diciamo, semplici come approccio. La guida comprende 21 itinerari di escursionismo di varia tipologia, quindi diciamo con dislivelli notevoli, ma anche dislivelli contenuti, anche diciamo, lo sviluppo dei percorsi può essere più o meno lungo. Considera 13 itinerari di sci alpinismo, 4 itinerari di sci escursionismo ciaspole, che sono diciamo, un esempio di possibilità invernali per chi diciamo, si cimenta con ciaspole e sci da sci escursionismo. Inoltre considera 11 itinerari di mountain bike. Per tornare alla versione invernale di questi monti, indico nel libro 23 itinerari di alpinismo, l'alpinismo invernale, che è sempre stato diciamo, molto, molto sentito, nel senso ci sono delle pareti sul Terminillo, il Monte Elefante, un'altra cima che supera i 2000 metri, nei Monti Latini. Questi monti storicamente vengono realizzate delle vie d'alpinismo di grande interesse. Oltre all'alpinismo invernale c'è l'alpinismo estivo. Sulla parete est del Terminillo vi sono alcune vie di roccia interessanti, e inoltre in quest'area dei Monti Latini vi sono delle possibilità per il free climbing. Ci sono tre palese di arrampicata sportiva su ottima roccia, due palese di queste tre si trovano a quote comprese tra i 1600 e i 1700 metri, quindi sono palesi interessanti soprattutto d'estate, quando altrove fa molto caldo, e sono palesi anche ubicati in luoghi molto belli paesaggisticamente. E abbiamo parlato della mountain bike, e mi manca il torrentismo, e indichiamo in questa guida tre forre, una molto conosciuta, diciamo, in tutto il centro Italia, il Fosso dei Cavalli, indicato in un fosso molto bello, con valloni di Caposcura. Insomma, quindi la guida è rivolta a un vasto pubblico e soprattutto indica i luoghi anche meno noti, meno frequentati di questi monti, perché i Monti Latini sono conosciuti soprattutto per il Terminillo, che è facilmente raggiungibile da Rieti, e quindi è molto conosciuto il versante occidentale, sud-occidentale di questi monti, mentre sono assolutamente da scoprire, riscoprire, da valorizzare i luoghi invece più diciamo, magari meno facilmente raggiungibili, tra virgolette, e ubicati più nel settore, diciamo, orientale e settentrionale dell'area. Io, diciamo, invito con questa guida a, appunto, frequentare luoghi meno conosciuti, perché sono anche quelli più selvaggi, più belli, quelli che fanno scoprire questi monti che non sono solo il Terminillo. Tra l'altro, diciamo, nell'area degli impianti vi sono delle brutture urbanistiche legate a, diciamo, una politica antica che ha, diciamo, rovinato parte di quest'area, e quindi invito le persone ad andare oltre questi luoghi compromessi, perché ve ne sono molti altri che si estendono in una vasta area e che vale la pena di essere appunto conosciuti. Allora, oltre la linea dell'antropizzazione, il Terminillo e i Monti Latini è una guida pubblicata dalle edizioni Il Lupo, edizionillupo.it, 20 euro in collaborazione col CAI. Ti chiederei in conclusione di fare un attimo un riferimento alla tua vicenda personale, insomma, perché i Monti Latini, anche come dire, in considerazione della tua formazione di geologo. Sì, allora vorrei dire due cose sulla casa editrice Edizioni Il Lupo, che è una casa editrice che opera diciamo in Appennino centrale, e le pubblicazioni sono di vario genere, dedicate alla montagna, invernale e non. Sono pubblicazioni guide escursionistiche, ma anche di scialpinismo. L'edizione Lupo si occupa di anche pubblicare carte escursionistiche, carte topografiche alla statura di 5.000 e pubblica carte anche di aree meno coperte da una cartografia escursionistica. E, con loro, tra l'altro, ho già scritto in precedenza una guida su altri monti, i Monti Lucretoli, che sono i primi monti a est di Roma. Diciamo che quello che mi ha portato a scrivere guide di questo tipo è il mio lavoro, è anche il mio lavoro da geologo, non è solo la passione per la montagna, frequentata in tutte le stagioni, ma anche legata un po' al mio lavoro da geologo. Io ho lavorato per molti anni a un progetto di cartografia geologica che mi ha portato a lavorare per anni su diverse aree montane del centro Italia, e per fare questo bisogna stare giorni in giro per monti a camminare, a guardare, a osservare rocce, osservare il territorio e riportare poi le osservazioni su una carta. Quindi diciamo questo lavoro mi ha dato un'ulteriore esperienza sul descrivere un territorio, su muovermi in un territorio, e questo permette di conoscere i luoghi anche meglio di molte altre persone che magari frequentano una montagna solo per diletto. E, insomma, diciamo che anche questo mi ha portato a intraprendere questo percorso. Allora, io ringrazio te, Andrea Bollatti, di essere stato con noi e speriamo di aver dato qualche spunto anche a chi, insomma, va in villeggiatura verso in direzione del centro Italia e non ha voglia di rinunciare alle montagne. E, insomma, risentiamoci per prossime pubblicazioni o, insomma, prossime riflessioni proprio su uno degli aspetti, insomma, che sono nella sottotraccia di questa guida, che è anche quella della riscoperta di un rapporto più nuovo, più moderno, insomma meno impattante delle attività all'aria aperta nel rapporto con l'ambiente di montagna. Assolutamente, io ringrazio te e ringrazio gli ascoltatori che invito a scoprire questi monti, i Monti Radini, ma non solo, perché l'Appennino sicuramente vale la pena di essere conosciuto, scoperto soprattutto da montanari del nord, e ogni anno incontro anche escursionisti che vengono dall'Austria piuttosto che dalla Francia o da altre zone oltre i confini italici, e tutti appunto si sorprendono della bellezza e della wilderness dell'Appennino, che è ancora molto presente. Quindi vi invito a scendere e a scoprire questi monti. Perfetto, alla prossima. Grazie, alla prossima. Anche la puntata 28 di Picchi di Frequenza volge al termine. Io spero vi sia piaciuta. Come di consueto vi invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, insomma quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, di modo da far conoscere l'archivio pubblico delle nostre quasi 30 puntate anche a chi non riuscisse a sintonizzarsi in streaming o in FM sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto. Con questa vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, ci risentiamo come di consueto venerdì prossimo alle ore 20 oppure tutta la settimana sull'account Spreaker di Picchi di Frequenza.